Allora, siamo qui nella stupenda oasi di Comunia per una serie di incontri sull'autogestione e sull'autorganizzazione e oggi abbiamo un'esclusiva per Ops Connecting Flights e per Radio Default con un compagno di Bari, Giuseppe, che è un militante anticapitalista appunto del capoluogo pugliese, che ci racconterà un po' le esperienze, le vertenze, le lotte che si stanno intersecando appunto nel territorio. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, Giuseppe, noi sappiamo più o meno che nel territorio barese ci sono tre grosse vertenze, cioè due grosse vertenze che in piedi. Una che riguarda prettamente il lavoro e una che riguarda i migranti. E so che c'è stata un'occupazione di migranti che si chiama Socrate Occupato. Se ci vuoi raccontare un po' questa esperienza. Sì, è un'esperienza che dura da 3 anni. Nel dicembre del 2010, i migranti richiedenti asilo etiopi ed eritrei, assieme a attivisti, a compagni, hanno occupato questa scuola, ex liceo classico. E da quel momento in poi è iniziato un processo sia di difesa del luogo, dai vari scombri minacciati, che di riorganizzazione del posto che era finalizzato a uso scolastico, appunto a fini abitativi. Questi due percorsi paralleli sono stati sempre caratterizzati dall'autorganizzazione e dal fatto che, come dire, autorganizzazione nel senso che si richiedevano alle istituzioni l'acqua, la luce, la ristrutturazione del posto senza utilizzare canali nascosti, canali che potevano essere, come dire, sfruttati a livello elettorale. Ma si è utilizzata sempre una linea politica con i migranti di, come dire, di richiesta trasparente, palese, della ristrutturazione e dell'acquisizione dell'acqua e della luce. Le istituzioni fino ancora ad oggi non forniscono né acqua né luce, sebbene i migranti richiedenti asilo abbiano diritto, secondo i trattati internazionali, abbiano diritto alla seconda accoglienza, cioè a un alloggio. Si è passati per varie le difficoltà di portare l'acqua con le autobotti, le difficoltà dell'autospurgo, cioè di ripulire le cisterne, le difficoltà dei generatori della luce, che si sono superate sempre con questa come dire, sinergia, a volte difficile, a volte molto gratificante, fra compagni, attivisti e migranti. Fino ad oggi che il collettivo di rivolta alla precarietà Bari e Ingegneri Senza Frontiere, con l'aiuto di altri attivisti, stanno per presentare alla Regione Puglia un progetto appunto di autorecupero che consiste nella ricostruzione, la ristrutturazione, non ricostruzione, la ristrutturazione dell'edificio in modo tale da renderlo idoneo all'abitazione. Maggiormente idonea all'abitazione e come dire, con acqua, luce, con tutte le caratteristiche di un'abitazione. Già ci sono stati dei tavoli istituzionali e l'obiettivo è chiaramente che questo progetto abbia dei soldi pubblici, che diventi questa struttura una struttura pubblica per l'alloggio e che a ristrutturare, questa è una nota molto positiva, a ristrutturare l'edificio siano proprio i migranti stessi, cioè attraverso dei contratti regolari, eccetera. E quindi questo progetto sarebbe da un lato utile per l'abitazione, dall'altro anche utile per il reddito di questi migranti. Alcuni migranti hanno lavorato a Nardò, alcuni migranti hanno subito nelle campagne le vessazioni, il lavoro che è al limite della schiavitù, perché 2 euro all'ora, questo è un po' il salario medio nelle campagne pugliesi. Ovviamente zero diritti, immagino. No, diritti non ci sono per i migranti, così come sicuramente anche i lavoratori italiani hanno pochissimi diritti, forse nessuno più. Ma i migranti, proprio perché non hanno molto spesso il permesso di soggiorno, anche se è un loro diritto, nello specifico l'asilo politico, per quanto riguarda i migranti del Socrate, l'asilo politico, anche se hanno diritto a questo permesso di soggiorno, non lo ottengono, e quindi sono vittime non solo di... non possono chiaramente rivendicare sul loro posto di lavoro un reddito, perché appunto sono vittime del ricatto, non solo occupazionale, ma anche di essere ricacciati nel proprio paese. Quindi c'è un doppio binario di sfruttamento, oppressione, che aggrava la situazione dei migranti, non che la condizione dei lavoratori italiani sia positiva, assolutamente no, però bisogna dire quello che è. Diciamo che se scappi da un paese e ti ritrovi poi qua, ovviamente devi accettare sempre condizioni sempre umilianti, sicuramente peggio di un lavoratore italiano, perché sei fatto tanto per scappare da un posto e c'è il rischio che, come alzi la testa, ti bastonano e ti rimpatriano al tuo paese dove sei scappato magari per persecuzioni o anche solo dalla povertà stessa, insomma non è... A proposito di questo, nel Socrate sono state tenute, nel Socrate occupato, sono state tenute diverse iniziative politiche, sociali, che riguardano il lavoro, l'internazionalismo, da ultimo la situazione in Palestina, la presentazione del libro nel baratro. E anche soprattutto iniziative sociali e politiche che riguardano anche il lavoro, proprio per cercare questa convergenza tra i lavoratori italiani e i lavoratori migranti, che sono dalla stessa parte sostanzialmente. Infatti mettevi nel discorso un tema a mio avviso fondamentale come quello del lavoro, che sta proprio, diciamo, a sottolineare come questo sia un progetto politico e non un'azione di carità, mettiamola così, come questo secondo, diciamo, come questo diritto ad alloggiare in Italia e ad avere diritti anche nel nostro paese vada preso da un punto ovviamente sociale, ma anche che vada in parallelo e si incontri allo stesso tempo con un progetto politico. Sì, è proprio questa è stata l'ottica del processo che c'è stato in questi 3 anni, cioè non migranti e il collettivo di supporto del Socrate sono riusciti a non richiedere un favore o la carità da qualcuno, ma a un diritto. In che senso? Proprio attraverso quelle pratiche quotidiane di auto-organizzazione, cioè non vendere qualcosa ai partiti politici che hanno tentato, senza non svendere qualcosa, ma sempre con un'ottica di conflitto nei confronti delle istituzioni, si è arrivati a ottenere questo, quasi ottenere, perché non è ultimato il progetto, però il processo ormai è molto avanzato, ad ottenere a trasformare un luogo in disuso, che era il Socrate occupato, in una struttura pubblica, a disposizione potenzialmente di tutti, nello specifico sarà dei migranti richiedenti asilo politico in Italia, è la seconda accoglienza. E, insomma, la Puglia, come un po' quasi tutto il meridione d'Italia, è protagonista anche uno dei punti di primo arrivo dei vari migranti che attraversano il Mediterraneo per venire appunto qua in Italia e in Europa. È un po' una delle varie porte di accesso all'Europa. Negli anni scorsi o anche adesso ci sono state mobilitazioni, ad esempio sulla questione dei centri di identificazione ed espulsione o i vari strumenti repressivi, i vari carceri, le varie gabbie che vengono costruite per chi ha la sola colpa di essere nato in un altro paese? Allora, a Bari c'è sia il CIE che il CARA, che è il centro di accoglienza per i richiedenti asilo. Sono due centri concentramento, proprio letteralmente, dove i migranti vivono in condizioni disumane e i diritti umani non sono assicurati. Nell'agosto del 2011 ci fu una grande mobilitazione dei migranti. Bloccarono le ferrovie e la circonvallazione tangenziale barese e ci furono scontri che rivelano le condizioni disumane in cui quotidianamente i migranti che alloggiano, una parola grossa, ma comunque sono stipati in queste... Sono carcerati. Carcerazioni limitate, regolarizzate, legalizzate. Manifestazioni di attivisti, compagni, persone di buon senso, c'è stata e ha messo insieme pezzi di attivisti, come abbiamo detto, baristi. Solo che non è stata sufficiente. Non è stata sufficiente perché c'è razzismo, c'è indifferenza, ci sono partiti politici, per intenderci quelli che sono in Parlamento, ora PD, PDL, SEL, chi è più indifferente, chi è meno indifferente, chi è più spregiudicato, chi è meno spregiudicato nel parlare, però poi nella sostanza le leggi rimangono, non c'è una battaglia politica all'infuori di gruppi di compagni, di militanti che quotidianamente hanno cercato in questo tempo ma non è stata sufficiente per chiudere queste carceri, che sono state introdotte bipartisan sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Centrosinistra apriva le porte, centrodestra completava il lavoro. Il centrosinistra iniziava il lavoro, il centrodestra lo completava, prima la Turco Napolitano, poi la Bossi Fini, le due leggi che hanno collegato, questo è stato il permesso di soggiorno al contratto di lavoro. Allora, una persona di buon senso si chiede come può un migrante che arriva e scappa dalla guerra, dal deserto, dalla carcerazione, come è stato dimostrato con Gheddafi in Libia, come è stato dimostrato in altre zone dell'Africa, come può appena arrivato in Italia avere un contratto di lavoro, quando gli stessi indigeni, cioè italiani stessi, molti lavorano in nido, soprattutto nelle aree meridionali, per cui c'è stata proprio la volontà di politica di tenere un pezzo del mondo del lavoro, quello migrante, in condizioni di semischiavitù attraverso il regime di clandestinità. Attraverso il regime di clandestinità si poteva abbassare il costo del lavoro, sia per i migranti stessi che per gli italiani, perché chiaramente questo cosa provocava? Che se cala il costo del lavoro perché ci sono i migranti, allora il padrone mette anche sotto ricatto gli italiani e quindi cosa è successo? Che si è diviso il mondo del lavoro coscientemente da parte del padronato italiano, rappresentato dal PD, dal PDL e da quello che erano, e per abbassare il costo del lavoro e con queste leggi. Sì, poi è andata in cortocircuito la cosa, perché alla fine i padroni hanno detto proprio: guardate, noi ci andiamo dall'altra parte dell'Adriatico, quindi lasciamo con le pezze al culo sia i migranti che gli indigeni, e quindi là hanno risolto la cosa. Cioè, con la crisi economica e quindi con la chiusura dei posti di lavoro, anche quei lavoratori immigrati che erano regolarizzati, che comunque ci sono, sono finiti poi in un regime anche loro di clandestinità. Ma voi avete notato appunto dal 2007, dall'inizio, da quando hanno cominciato a chiudere massicciamente le industrie, cioè, secondo voi ciò ha colpito anche appunto la composizione dei migranti irregolari? Allora, e soprattutto no, volevo aggiungere, e inoltre diciamo, questi movimenti da parte del padronato hanno anche diciamo, buttato benzina sul fuoco, ampliato quella visione che si rischia di avere dei migranti come coloro che rubano il posto di lavoro agli italiani, quindi hanno inasprito quella lotta tra poveri, se vogliamo, che ovviamente i migranti vivono purtroppo in maniera ancora più feroce, più atroce, se vogliamo. Sì. La classe dirigente italiana dagli anni 90 in poi, come dire, ha deciso di da una parte di dividere a livello legislativo la condizione di lavoratori indigeni e lavoratori migranti, quale non c'era precedentemente, perché in Italia prima non c'era questa distinzione, dato che il permesso di soggiorno era concesso all'entrata dei migranti in Italia. E non, negli anni 80 assolutamente l'Italia non era un paese razzista, sia a livello istituzionale che a livello culturale, assolutamente meno che mai, anzi. Poi, e dal punto di vista culturale, sempre le stesse forze politiche che si sono riciclate attraverso diversi nomi, come sappiamo, proprio per conservarsi, cosa hanno fatto? A livello culturale innescavano quella idea secondo la quale non c'è posto di lavoro, oppure i salari sono bassi a causa dei migranti. Falso. Falso, questo è un falso storico, poiché la concorrenza tra lavoratori migranti e lavoratori indigeni italiani nasce proprio da quelle leggi che rendono clandestino il lavoratore italiano, il lavoratore, scusate, migrante, o semiclandestino il lavoratore migrante. Proprio la concorrenza tra lavoratori migranti e lavoratori italiani è una conseguenza di queste leggi che vanno a dividere la condizione dei lavoratori in generale, migranti e indigeni. Quindi questo è accaduto. Poi la crisi economica, chiaro che ancora di più inasprisce le condizioni di vita, perché si perdono posti di lavoro, ormai è notizia comune che il posto di lavoro viene perduto, ma e poi possiamo fare anche degli esempi, ma di come vengono la zona industriale di Bari sta diventando, come dire, vuota di fabbriche, cioè non, di produzione. Ci sono le fabbriche, ma non c'è la produzione, restano in poche. Perché? Perché o si delocalizza, perché è un dato di fatto che si delocalizza, perché il capitale ha bisogno di aumentare i propri profitti e quindi preferisce andare in altri posti, oppure si generano delle, tra virgolette, Cina nell'Italia stessa, cioè dei luoghi in cui i salari sono bassissimi nell'Italia stessa, il caso Barletta, per chi lo conoscesse, quelle lavoratrici che morirono per la caduta della palazzina, venivano pagate 3 euro all'ora, e questo sfruttamento queste, tra virgolette, Cina, cioè luoghi senza diritto del lavoro, che sono nel meridione, ma non solo nel meridione, questi luoghi sono, come dire, presenti nel meridione, cioè parlo della zona di Barletta, no? Ma anche del Salento, zone in cui lavoratori italiani sono pagati 2-3 euro all'ora. E questo, diciamo, ci porta anche un po' all'altro tema, all'altra esperienza che ci raccontavi, Giuseppe, ovvero di un tentativo di riappropriazione di una fabbrica. Ci puoi raccontare un po' questa esperienza? Andiamoci piano perché i percorsi di lotta hanno una certa gradualità e dei momenti di accelerazione caratterizzati dalla lotta. E cioè, per spiegare cosa significa questo, semplicemente che esistono delle lotte di resistenza nel mondo di lavoro alla zona industriale di Bari, in particolare l'esperienza dei lavoratori dell'OM Carrelli Elevatori, ex fabbrica Fiat, presente da 90 anni in Italia, fabbrica italiana, diciamo, del capitalismo italiano, che poi è stata acquisita dalla Kion, multinazionale tedesca. La Kion ha deciso di spostare la produzione perché evidentemente i profitti non erano, c'erano grandi profitti, ma non erano sufficienti per l'ingordigia e per la naturale legge del capitalismo, che è quella di accumulare più capitale possibile. E quindi cosa è successo? I lavoratori dell'OM prima hanno fatto un sit-in sotto al comune di Bari e le istituzioni comunali e regionali si sono dimostrate, come dire, disponibili a parlare e si ventilava, cioè era prevista l'acquisizione da parte di un'azienda di taxi inglese della fabbrica. Questo accordo fu firmato al Ministero dello Sviluppo Economico. Questo accordo non è stato rispettato dalla Kion, cioè un accordo firmato al Ministero dello Sviluppo Economico non è stato rispettato da una multinazionale. Questo vuol dire che cosa? Che sostanzialmente neanche un ministero di uno stato più o meno sviluppato riesce a far rispettare un accordo. Quindi che cosa significa questo? Che il potere delle multinazionali e quindi del capitale non si beffa, cioè non ha nessun rispetto neanche, ma anche perché, soprattutto è inutile nascondere, i ministeri sono da anni che sono occupati da persone che difendono il capitale, difendono le multinazionali, quindi non vedo il motivo per cui ci dovrebbe essere non c'è il movente per cui il ministro possa difendere questo accordo. E ora la cosa più importante, veniamo alla lotta di questi lavoratori, prima in sit-in 24 ore su 24 sotto il comune per mesi al freddo, eccetera. Poi, quando l'azienda, quella porto, la dico in sintesi perché il tempo è quello che è, quando l'azienda ha dimostrato la volontà di portare via i macchinari, i lavoratori hanno iniziato a fare il sit-in davanti ai cancelli della fabbrica, bloccando la fuoriuscita dei macchinari, perché hanno ritenuto opportuno mantenere questa ricchezza per poi portarla come forza davanti a una vertenza, col tentativo magari di trovare un altro padrone, un altro capitalista che investisse. Ma sebbene ci sia stato questo tentativo da parte dei lavoratori di trovare un altro capitalista che investisse, cioè proprio dal momento in cui come detto prima, neanche un'azienda che ha firmato, quell'azienda che ha firmato l'accordo davanti al ministero, ha rispettato quell'accordo e quindi non ha più preso quell'azienda. Allora i lavoratori hanno detto: oh, allora non c'è da fidarsi più di nessuno, blocchiamo a tempo indeterminato l'uscita dei macchinari. Per ultimo cito la lotta che giorni fa si è tenuta da parte dei lavoratori per bloccare la fuoriuscita dei macchinari dall'azienda. L'azienda ha mandato dei camion per portarsi via i macchinari e il prodotto finito, i lavoratori di Citin hanno bloccato. Hanno bloccato perché ritengo è una ricchezza che li appartiene, perché in questi decenni loro hanno lavorato e hanno fatto arricchire il capitalista, il padrone, e quindi che non solo non è stato affatto grato rispetto a questa ricchezza che i lavoratori hanno creato per lui, si vuole portare i macchinari. Allora i lavoratori iniziano a sentire propri quei macchinari, proprio perché derivano dal loro lavoro. E abbiamo anche una domanda. Sì, ciao, buonasera. E la domanda era riguardo al posto, diciamo, all'interazione che c'è stata tra l'agente di Bari e il Socrate. Cioè, una dinamica, comunque abbiamo detto, che si tende a pensare che il migrante rubi il posto di lavoro, o che anche nelle comunità, specialmente quelle piccole, o che ci sia proprio un contrasto tra l'indigeno e il migrante. Quindi il Socrate, come, diciamo, che interfaccia ha avuto con la popolazione del luogo? E... Allora, i cittadini che abitano intorno all'edificio occupato dai migranti a scopo abitativo hanno mostrato o indifferenza o un atteggiamento di accoglienza. Quindi sostanzialmente non sono stati contrari. Questa contrarietà agitata, cioè propagandata, che qualcuno dice che ci sia, che si sia sviluppata, effettivamente non c'è. Cioè non c'è questa contrarietà a che i migranti utilizzino quel posto caduto in disuso. Le destre le destre fasciste più o meno conservatrici hanno invece marciato su piccoli episodi di insignificanti, dicendo che i migranti è il collettivo di supporto ai migranti, come dire, nuoceva alla quiete pubblica. In realtà questo è falso, perché chiaramente c'è stato quelle feste che si facevano, che si sono fatte, erano a fini di autofinanziamento per procurare l'acqua e la luce a quei migranti stessi, che non veniva fornita dal comune, anche se quei migranti avevano diritto a quella luce, a quell'acqua, in quanto richiedenti asilo, perché vengono dall'Eritrea, dall'Etiopia, luoghi dove c'è la guerra civile o comunque una para guerra civile, e dove, ricordiamo, lo Stato nazionale italiano all'epoca del fascismo ha perpetrato un genocidio degli etiopi. In Eritrea c'è stata la colonizzazione, e quindi quei posti prima sono stati devastati socialmente dagli Stati nazionali italiani, nello specifico. Quindi stiamoci attenti quando diciamo che c'è chi dice possono rimanere nel loro paese, ma il loro paese è stato devastato dall'imperialismo italiano stesso, nostrano, del padronato italiano che ha deciso durante il fascismo, nel ventennio e durante l'epoca giolittiana, no, non giolittiana, ancora precedente, di Crispi, eccetera, di occupare quei luoghi senza motivazione. Quindi a maggior ragione c'è anche una giustificazione storica, oltre che quella più prettamente legalitaria, diciamo, vista dal punto di vista dei diritti, giusto? Sì. Oltre al fatto che, come dire, oltre alla questione dei diritti umani, oltre alle questioni della, oltre a queste, alla questione che comunque dei diritti umani che devono essere assicurati a tutti, c'è anche una motivazione storica per cui l'Italia deve fornire la seconda accoglienza a quelli, le persone che scappano dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia. E quindi ringraziamo Giuseppe e ovviamente ricordiamo, ci sono contatti per sapere iniziative che si fanno giù a Socrate, ci può lasciare qualche contatto, qualche riferimento? Sì, allora, la pagina Facebook Rivolte il Debito Bari viene aggiornata quotidianamente delle attività che si fanno al Socrate, alla zona industriale, e anche la pagina di Ateneo Rivolta a Bari, e ora tra poco ci sarà un blog, ma questo in futuro. Comunque anche il sito nazionale di Rivolta il Debito è molto aggiornato. Allora ti ringraziamo di nuovo e buona libertà a tutti e a tutti.